già la mente satura di tutte le stronzate che mi propinano i maledetti giornalisti di facciata. Con gli occhi lacrimanti per le verità mandate in fumo dai bugiardi nati sotto il segno della scimmia. E mentre ancora leggi le teorie di Nietzsche sul superuomo, gli americani bombardano il villaggio dei puffi. E mentre ancora leggi le teorie di Nietzsche sul superuomo, gli americani bombardano il villaggio dei puffi. Regna sovrana l'ignoranza o forse l'incoscienza, perdute in più bicchieri di alcol. Abile la nostra volontà di dire no agli eccessi di droghe ingurgitate senza troppi timori reverenziali. E mentre ancora leggi le teorie di Nietzsche sul superuomo, gli americani bombardano il villaggio dei puffi. E mentre ancora cali dell'acido lisergico sulla tua lingua, gli americani bombardano il villaggio dei puffi. Le palpebre è meglio non guardare, tappi nelle orecchie è meglio non sentire, meglio soffocare, meglio evaporare, sparire, morire, sparire. E mentre ancora leggi le teorie di Nietzsche sul superuomo, gli americani bombardano il villaggio dei puffi. E mentre ancora cali dell'acido lisergico sulla tua lingua, gli americani conquistano il villaggio dei puffi. E mentre ancora leggi le teorie di Nietzsche sul superuomo, gli americani si fottono i funghi dei puffi. E funghi allucinogeni, e funghi allucinogeni, e funghi allucinogeni, e funghi allucinogeni, e funghi allucinogeni, e funghi allucinogeni, e funghi allucinogeni, e funghi allucinogeni.